Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Attilio Bindi. Dolci fatti in famiglia sulle tavole di tutto il mondo. Di Anna Marino. Ma se il dolce fatto in casa è fatto bene, per carità, anche il dolce fatto in casa va bene. Beh, anche i nostri dolci sono come fatti in casa, assolutamente, sì. Una casa grande. A trovarsi di fronte al dilemma dolce confezionato o dolce fatto in casa è un vero intenditore. Si chiama come il fondatore della dinastia di pasticceri, Attilio Bindi, e rappresenta la terza generazione di famiglia. È il presidente di Dessert Service, una filiale in America di Bindi, azienda diventata ormai una multinazionale che opera con due stabilimenti di produzione in Italia e uno negli Stati Uniti, 7 filiali dirette di vendita e un forte network di concessionari e partners commerciali che assicurano una distribuzione capillare in Italia, negli Stati Uniti, in Turchia, Russia, Ucraina, Cina, Hong Kong e Australia. Ma la storia della Bindi nasce nel 1946 con l'acquisto di una piccola pasticceria che Attilio Bindi, ristoratore toscano e fondatore dell'azienda, compra in Via Larga a Milano, spinto da una passione per i dolci che già condivideva con il figlio primogenito, Romano, ancora adolescente, e con il secondogenito, Rino, ancora bambino. Il lavoro sotto casa, come ricorda il nipote. Nel senso che avevamo la pasticceria e sopra avevamo l'abitazione. In Via Larga, nel 1946, questa pasticceria è stata comprata da mio nonno. Giusto per dare un'idea, nel 1946 non c'erano i frigoriferi, non c'erano i freezer, non c'erano le catene del freddo, quindi la possibilità di stoccare. Quello che mio nonno ha inventato, e che comunque ancora oggi è il nostro leitmotiv, è il servizio di pasticceria. Noi non abbiamo inventato la pasticceria, abbiamo inventato un servizio, nel senso che i ristoranti chiamavano, veniva fatta la torta e consegnata da mio padre e mio zio in bicicletta quando erano ancora ragazzini, poi con l'ape, poi piuttosto che con la Topolino. È proprio sempre stato questo, la capacità, diciamo, di creare business, il servizio. È una storia che inizia con un'idea assolutamente innovativa per l'epoca: offrire per primi un dolce come servizio su ordinazione, consegne veloci giorno e notte ai ristoranti milanesi. Da 45 minuti a 2 ore per vedersi recapitare la torta ordinata. Un'idea di nonno Attilio, che il nipote omonimo spiega con la sua storia di immigrato dalla Toscana in Milano, dove nacque il fenomeno dilagante delle trattorie toscane, con un ventaglio di proposte diverso dalla cucina milanese. Siamo originari, come famiglia, di Chiesino Uzzanese, che è un piccolo paesino in provincia di Pistoia. Stiamo parlando del periodo della Grande Depressione, per cui c'era una grossa immigrazione da parte delle campagne. Molti di questi toscani, nella zona di Chiesino Uzzanese, Alto Pascio, Montecatini, si sono spostati verso Milano, aprendo dei ristoranti, portando una ventata di novità in quello che era a quei tempi la ristorazione milanese, aprendo le famose trattorie, o quindi con un rapporto anche qualità-prezzo che andava bene alla nuova classe media che si stava cominciando a formare nel dopoguerra. Questo è stato uno dei grossi vantaggi, perché poi, essendo noi toscani, chiaramente era una specie di club, no? Una specie di associazione di ristoratori, e chiaramente quando si incontravano parlavano delle problematiche di lavoro. Una delle problematiche era sempre di avere un prodotto che potesse essere, anche specialmente, non so, nel periodo estivo, non avendo la possibilità di avere dei sistemi di refrigerazione, che fosse edibile. Da quel momento la famiglia Bindi ha costruito, anno dopo anno, una lunga storia di crescita. Il boom degli anni 50 non tralascia nemmeno le pasticcerie. La clientela di italiani goderecci aumenta e la pasticceria Bindi si ingrandisce nei nuovi locali di Via dell'Unione. La trasformazione, però, da pasticceria cittadina a industria con diffusione in tutta Italia, ha luogo soltanto negli anni 70. Spuntano i capannoni, 25.000 metri quadri di superficie a sud di Milano, dove 500 dipendenti sfornano giornalmente 30.000 torte. Charlotte alle pere, cheesecake ai frutti di bosco, tiramisù, mille foglie, torte di limone e semifreddi. Raggiungono 25.000 clienti sparsi sul territorio nazionale, grazie a 390 veicoli attrezzati al trasporto a bassa temperatura. Una crescita imprenditoriale partita però da Milano, come ricorda Attilio Bindi. Impresa, nel vero senso della parola, siamo diventati intorno agli anni 70. Mio nonno morì giovane, 54 anni, quindi lì il primo passaggio generazionale fu abbastanza brusco, perché mio padre aveva 25 anni e mio zio 18, per cui si ritrovarono a gestire quella piccola impresa e abbandonarono quelli che erano gli studi, si misero con tutta la loro passione a fare questo tipo di lavoro, tentando di portare avanti quello che mio nonno aveva impiantato. Mio padre chiaramente si innamorò letteralmente della pasticceria e di conseguenza è stato quello che comunque ha sempre portato grandissime, insieme a mio zio, nuovi prodotti. Ricordiamoci che a Milano c'erano due signore aziende che si chiamavano Motta e Alemagna e che erano delle grandissime aziende di pasticceria. Per cui prima bisognava tentare di portare via dello spazio a loro. Quello che ci ha permesso, come dicevo, di essere presenti in tutti i ristoranti di Milano fu questo primo prodotto che mio padre vide quando faceva il militare a Firenze, che qui in Milano non avevo mai visto, che si chiamava Zuccotto. Questo Zuccotto è diventato qualcosa che ha avuto un grandissimo successo. Era una torta semifredda addirittura, ma nel gelato, pasticceria, qualcosa che era edibile sia d'inverno che durante l'estate. Poi da lì la merengata piuttosto che la meneghina, il profiterol, tantissimi prodotti che comunque hanno fatto, non dico la storia perché non c'è una grandissima innovazione nell'alimentare, però queste creatività, questa fantasia, no, che abbiamo sempre dimostrato nella creazione dei prodotti, specialmente su una città come Milano che comunque ci ha abbracciato e di cui siamo parte e che adoriamo, ha fatto conoscere chiaramente l'azienda. Le idee di nuove linee nascono quindi una dopo l'altra dalla mente e dall'esperienza del padre di Attilio Bindi. Durante i viaggi, sia vedendo quelle che potevano essere altre pasticcerie, piuttosto che a volte mettendosi proprio col pentolini a provare delle creme, facendo proprio della sperimentazione. Poi, per dire, noi non abbiamo inventato il tiramisù. Il tiramisù è un prodotto tipico veneto, ma al di fuori del Veneto chi l'ha portato in Italia è stato Bindi, che comunque l'ha comunque messo a punto, industrializzato, l'ha fatto conoscere. La lavorazione dei dolci si è però evoluta nel tempo. Una volta c'erano molti più quelli che vengono chiamati in gergo tavoli, nel senso dove comunque le torte non venivano fatte in serie, ma ogni singola torta veniva assemblata senza avere un processo produttivo continuo. La parte, diciamo, di industrializzazione è avvenuta piano piano, anche perché abbiamo sempre tentato di mantenere un aspetto di presentazione che per noi è molto importante. Il dolce si mangia con gli occhi. Per cui c'è sempre questa tradizione di esporre i dolci all'interno del ristorante, quindi quando il dolce ha, diciamo, un certo tipo di avvenenza femminile è sicuramente molto più appetitoso e quindi sicuramente per certe parti delle lavorazioni, tipo la cottura del pan di Spagna, la formatura dei bignè, il riempimento dei bignè, ci sono tutti un sistema di automatizzazione, ma tutto quello che è il finissaggio, tutto quello che è la decorazione viene fatta ancora con un sistema estremamente manuale. Ma l'azienda è sempre stata fin dalle sue origini a stampo familiare e a dimensione di negozio, per non perdere il contatto con il cliente e testare subito i prodotti nuovi, come ricorda Attilio Bindi. Quando si parla della famiglia Bindi bisogna pensare, cioè io ho praticamente due padri, nel senso che il fratello mio padre è più giovane, però anche lui si è messo subito all'interno dell'azienda e praticamente sono sempre state le due persone che hanno condiviso in maniera rituale tutte quelle che erano le scelte, quelle che erano decisioni da prendere all'interno dell'azienda. Spesso vengono chiamate le mosche bianche perché comunque, nonostante poi crescendo il business e avendo anche molti più interessi, hanno sempre mantenuto un rapporto di estrema cordialità, fiducia, amicizia soprattutto, che ancora oggi li vede uniti in tutte quelle che sono le loro decisioni. Dal negozio non siamo mai usciti, nonostante l'attività dell'industria per la ristorazione andasse avanti, abbiamo sempre mantenuto questa, diciamo, vocazione al commercio, per cui abbiamo sempre tenuto dei negozi che gestivamo, uno di questi lo gestiva mia madre fino a quando ho lavorato, punto storico, ancora oggi i tassisti senti via Unione da Bindi, anche se Bindi sostanzialmente non c'è più tanto, ma è rimasto un bar con la nostra insegna, era diventato sicuramente un qualcosa, un punto di riferimento su Milano. Il passaggio di testimone avviene in diversi modi, secondo Attilio Bindi. Penso che non esista una ricetta, chiaro che io vedo l'esperienza di casa mia, e l'importante è avere la possibilità di ricavare tutti quanti uno spazio all'interno dell'azienda, nel senso che di non accavallarsi, avere delle piscine diverse ma con la stessa acqua e poi avere dei momenti chiaramente di confronto, perché non so mai se chiamarle imprese familiari o famiglie imprenditoriali, perché praticamente si vive in un continuo consiglio di amministrazione, perché ci sono anche le feste comandate, quando arriva il dolce se l'altro si fa qualche commento su che cosa stiamo mangiando, ecco. Scommettere sulle nuove generazioni è imprescindibile, anche se il passaggio non deve essere forzato. Questa è la lezione che Attilio Bindi ha appreso dal suo ingresso in azienda. La prima cosa che ho fatto in azienda quando ero ragazzetto era pesare le torte che arrivavano dal laboratorio per metterle in negozio, per cui dare una mano sotto Natale a preparare i pacchi natalizi, se non altro fare le consegne. Poi chiaramente avendo fatto anche un'impostazione di studi economici, avendo l'azienda, ho fatto tutti quelli che potevano essere passaggi nelle varie funzioni, quindi la parte produttiva, la parte ricerca e sviluppo, sicuramente la parte commerciale, l'amministrativa finanziaria, per avere una cognizione, diciamo, un'infarinatura, come si dice in pasticceria. Ed ecco quali sono gli ingredienti per un bel bilanciamento tra vita e lavoro, secondo Attilio Bindi. Pensare che hai un padre che ha la fabbrica del cioccolato, la fabbrica dei dolci, è uno dei sogni dei bambini. O sogno che il padre abbia la fabbrica dei giocattoli o la fabbrica dei dolci. Questo sicuramente è un vantaggio. No, non bisogna forzarle in certe situazioni, ritengo. Però non bisogna neanche essere timorosi di parlare di quelli che possono essere gli aspetti del lavoro, sia per quanto riguarda i successi che per quanto riguarda gli insuccessi. E poi io dico sempre, è un'opportunità che voi avete, non voglio che nessuno di voi forzatamente venga, però sappiate che è una grandissima opportunità, perché innanzitutto è un lavoro che ti dà tantissime possibilità di esprimere le diverse personalità che ci possono essere, per cui ognuno può trovare, come dicevo prima, il suo giusto spazio, dare il massimo in quello che sono un po' quelle che sono le sue, il suo carattere, il suo temperamento, le sue passioni. Conquistare la ristorazione di tutto il mondo e diventare un partner innovativo, professionale, affidabile, in grado di assicurare a Milano come a Tokyo, a New York come a Madrid, a Londra come a Parigi, a Berlino come a Mosca, stesse qualità e servizio. Attilio Bindi spiega come, a cominciare dall'esperienza dello sbarco di Bindi oltreoceano, in America. Sono stati spediti 2 pallets di prodotti per fare un test, io ero legato sopra, sono stato spedito per tentare di andare a capire come potesse essere la potenzialità di questo mercato. Sicuramente New York è stato il nostro sbarco negli Stati Uniti, la ristorazione americana si è molto evoluta, si è molto più raffinata, mi passi questo termine, anche se qualcuno può storcere il naso, rispetto a quella che non era quella di 20 anni fa. Un'onda anche della cucina italiana che comunque sta avendo e continua a riscontrare un sacco di successi, il nostro stile di vita e di conseguenza anche il mangiare il bere fa parte del nostro stile di vita, ha sicuramente aiutato. E noi ci siamo anche lì, abbiamo trovato il nostro spazio nei ristoranti di fascia media alta, che comunque 20 anni fa avevano solamente il cheesecake e la torta al cioccolato. Ma dall'America sono anche arrivate in cambio nuove idee. La prima cosa che ho portato a casa come idea è stato il cheesecake, che è stata una battaglia venderlo, perché chiaramente non sapeva come si pronunciava, come si scriveva, se veniva tradotto torta al formaggio uno pensava a una torta salata, una quiche Lorraine. Poi abbiamo avuto l'idea di metterci sopra dei frutti di bosco, allora i clienti sentivano cheesecake con i frutti di bosco, capivano solo frutti di bosco, l'ordinavano e alla fine hanno cominciato anche a assaggiare la torta col cheesecake, e lì è diventato un prodotto di discreto successo anche in Italia. Quello che invece stiamo facendo negli Stati Uniti, da quando nel 2000 abbiamo aperto il primo impianto produttivo, dico il primo perché l'abbiamo allargato l'anno scorso, abbiamo cominciato anche a creare una cultura all'interno della società più internazionale, quindi con gusti, porzioni, magari di matrice un pochino più anglosassone, senza però perdere quella che è il nostro stile, per cui facciamo gli cheesecake agli americani, ma facciamolo più elegante, diciamo, rispetto a quello che loro avevano, magari stando anche molto attenti come stiamo attenti noi al contenuto di calorie o piuttosto di avere prodotti senza l'utilizzo di OGM. E il dolce ha iniziato a viaggiare, grazie a nuove conoscenze, da una parte all'altra del mondo, in modo ben diverso rispetto al trasporto in bicicletta degli albori di Bindi. Un certo tipo di business, dai croissant al gelato e alla pasticceria, si è potuto sviluppare dagli anni 70 proprio per il dilagare della tecnologia del freddo, e oggi praticamente il freddo ha raggiunto dei costi molto più bassi e i trasporti vengono effettuati attraverso, per dire, dall'Italia negli Stati Uniti con dei container che tengono tranquillamente la temperatura come il nostro freezer di casa. L'importante è partire con 120 di qualità, e questo è quello che è la nostra passione che ci mettiamo ogni giorno. Ma il modo di preparare le delizie, il mondo dei sapori, è rimasto quello tradizionale. Si parte sempre dal pasticcere, si parte sempre dalla creatività, si parte sempre dalla passione, dalla voglia di creare del nuovo, dalla sperimentazione. È fondamentale. Come il laboratorio di pasticceria dove creiamo, ne abbiamo uno in Toscana, 2 negli Stati Uniti e 11 qua a Milano. Facciamo circa 300-400 progetti di prodotto all'anno. Poi di questi solamente 13-14 trovano la via del mercato. Poi di questi 13-14, 5-6 diventa di successo, altri magari per un periodo stagionale. Attilio Bindi però non rinuncia a consumare il rito di persona. Il giovedì alle 2:30 non si scappa, è una delle riunioni più importanti dell'azienda.